24. La storia. Mio caro amico, nel corso delle notti insonni, il mio pensiero torna spesso a Montecassino. Abbiamo preso parte alla più grande battaglia dell'ultima guerra, in cui molti giovani hanno perso la vita. E siamo sopravvissuti. Perché questa guerra insensata? Mi fa male il cuore quando penso a quei ragazzi uccisi lì a Montecassino. In nome di quale causa? I generali, lontani dal campo di battaglia, impartivano ordini cui dovevamo obbedire e poi morire. Cassino, 1944. La storia fa un passo indietro. Il tempo torna alle trincee. Gli assalti frontali prendono il posto della guerra di movimento. In 4 mesi va in pezzi il mito della guerra moderna e rapida. Tutto si svolge tra i fiumi Liri e Garigliano, in una valle dominata dal monastero benedettino di Montecassino. È il punto cruciale della linea Gustav, la linea che separa l'Italia del Sud, già liberata dagli alleati, a quella del Nord, ancora occupata dai tedeschi. Bastano 3 ore perché sotto le bombe alleate crolli la testimonianza di un millennio di civiltà, mietendo più vittime tra i civili che tra i nemici. A Montecassino combattono polacchi, indiani, neozelandesi, italiani, magrebini e con loro gli inglesi, gli americani e i francesi, tutti alleati contro uno degli eserciti più agguerriti della storia, quello del Terzo Reich. Alla fine dei combattimenti, le perdite da entrambe le parti ammonteranno a 350.000 uomini. Herbert Fries, tedesco. Barati Gurung, nepalese. Hermann Wölk, tedesco. Les Andrew, neozelandese. Jan Zaremba, polacco. François Barillon, francese. Con loro, i reduci della Seconda Guerra Mondiale, raccontiamo oggi a Mix 24 questa tragedia della storia a Montecassino. Qui per 4 mesi, dal gennaio al maggio del 44, alleati e tedeschi si affrontano in una serie di scontri durissimi. Per gli alleati la posta in gioco è la liberazione di Roma. Per i tedeschi invece la posta in gioco è la sopravvivenza. I nazisti devono resistere ad ogni costo, oppure accetteranno la sconfitta definitiva. Eppure, nonostante i tedeschi siano pochi, stremati, 500.000 di soldati alleati impiegano 14 settimane per percorrere gli 80 chilometri che separano la Napoli liberata da Montecassino. Ma perché gli alleati hanno impiegato tanto a percorrere quegli 80 chilometri? Chi erano i generali alleati che comandavano con così grande difficoltà quell'operazione? È vero che furono i litigi, i contrasti tra di loro a provocare questo massacro, ce ne parla Thomas Rowe. A Montecassino, tra gli alleati c'erano molti generali abili ed esperti. Purtroppo, però, nel comando alleato c'erano anche problemi al vertice, in particolare per quanto riguarda il generale americano Mark Clark. Il problema fu che Clark non era mai stato comandante in capo. Aveva fama di essere un buono stratega. Si diceva che fosse molto abile, eppure a Montecassino non ha dato prova di nessuna di queste due qualità. Il generale Patton, anzi, ha detto che Clark era troppo sicuro di sé. Per espugnare Montecassino, roccaforte strategica della resistenza tedesca, bisogna assaltarne la cima. Il generale Alphonse Juin, a capo delle truppe della Francia Libera, è invece di opinione opposta. Per Juin occorre aggirare il nemico, colpirlo alle spalle, dove è meno difeso e soprattutto senza esporre le proprie truppe ad un massacro inutile e prevedibile. Ce ne parla Thomas Rowe. Il generale Alphonse Juin era il comandante in capo delle forze francesi e nordafricane qui a Montecassino. Era nato nell'Algeria francese e aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale, dove aveva perso la mano destra. Nel 1940, quando la Germania aveva invaso la Francia, era stato catturato, ma poi era stato rilasciato perché il maresciallo Pétain, capo del governo di Vichy, gli aveva chiesto di assumere l'incarico di comandante in capo delle forze filonaziste nel Nord Africa. Juin ricoprì la carica fino al 1942, quando, dopo una seria riflessione sul giuramento prestato a Vichy, diventò il capo delle truppe della Francia Libera qui a Montecassino. 14 gennaio. Il corpo di spedizione francese, guidato dal generale Juin, arriva nella valle del Liri. Negli stessi giorni, gli alleati del decimo corpo inglese sferrano la prima offensiva sulla linea Gustav, in prossimità del fiume Garigliano. I facili successi ottenuti inducono Clark a pensare che un attacco simile, portato avanti verso la città e il monastero di Cassino, non comporterà perdite eccessive. Il generale Juan viene mandato a nord ad attaccare le postazioni tedesche schierate intorno al Monte Cairo. Il sottotenente d'artiglieria François Barillon, all'epoca 25 anni, fuggito attraverso la Spagna dalla Francia occupata dai nazisti, è riuscito ad arruolarsi nel corpo francese libero. Sentiamolo. L'esercito francese non ha mai partecipato alla conquista vera e propria della città di Cassino né dell'abbazia di Monte Cassino. Tuttavia, dopo lo sbarco ad Anzio, il generale Clark, che era al comando del quinto corpo d'armata statunitense, chiese al generale Juin di conquistare il colle del Belvedere, che è proprio qui vicino. Il Belvedere si trova a 2 chilometri da qui. Per il corpo di spedizione francese, l'azione è stata molto impegnativa. Eravamo sfiancati dalle battaglie precedenti. Abbiamo subito molte perdite. Ciò nonostante, siamo riusciti nel compito che ci era stato assegnato. Ma se i francesi riescono comunque a conquistare il loro obiettivo, il Colle Belvedere, per gli anglo-americani il massacro è inevitabile. Nel corso della prima battaglia, che si svolge nelle stesse ore dello sbarco ad Anzio, viene interamente decimata la 36esima divisione di fanteria americana, che, dopo la guerra, denuncerà il generale Clark per il disastroso errore strategico. La divisione di fanteria è infatti composta da giovani soldati di leva, molti dei quali nel gennaio del 44 provengono dalla campagna d'Africa senza però aver mai combattuto su quel campo. I comandi americani pensano di sopperire all'impreparazione delle truppe con la superiorità tecnologica di mezzi e di uomini. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Quella che raccontiamo oggi è una storia drammatica, quella che ha luogo sulla linea Gustav, il confine che divide l'Italia in due nella Seconda Guerra Mondiale. Tra i tedeschi chiamati a difendere Cassino ci sono i paracadutisti della prima divisione, detti i Diavoli Verdi. Reparti di elite addestrati per operazioni lampo che a Cassino sono invece destinati a una logorante guerra difensiva. Il tenente Hermann Wölke proviene da una famiglia di agricoltori a 25 anni e comanda una compagnia di paracadutisti. Veterano dei sanguinosi scontri a Creta e dell'assedio di Mosca, conosce bene gli orrori della guerra. Ascoltiamolo. Ero un volontario, anche se non sono mai stato iscritto al partito nazista. Ciononostante mi sono presentato volontario. Mi sembrava l'unico modo per difendere la vita. All'epoca pensavo che compito del soldato fosse difendere la vita, non distruggerla. Oggi mi rendo conto che la guerra significa solo la distruzione, la morte di persone innocenti ed inermi. E allora mi chiedo, qual è la causa di tutto ciò? Per i tedeschi fu come un tiro al piccione. Occupavano le posizioni più elevate e quindi avevano un'ottima visuale del campo di battaglia. Avevano avuto tutto il tempo per fortificare a dovere la linea Gustav. Le comunicazioni, i rifugi, il puntamento delle armi, tutto era stato predisposto con grande perizia. Grazie a questa preparazione i tedeschi hanno potuto concentrare il fuoco su obiettivi circoscritti, trovandosi per di più in una posizione favorevole, e sono riusciti a respingere l'attacco di forze molto più numerose. Ma sono riusciti a farlo da soli, con grande abilità tattica, a dispetto della tensione e dello svantaggio numerico. Avete sentito Thomas Rowe. Dunque, per gli alleati, il primo tentativo di conquistare Monte Cassino si risolve sostanzialmente in un disastro. Ma nonostante il parere contrario del generale francese Juin, l'americano Clark, comandante della Quinta Armata, insiste. Monte Cassino va espugnata ad ogni costo. Ai primi di febbraio il comando alleato decide di mandare all'attacco i reparti neozelandesi sotto la guida di Sir Bernard Freiberg, un altro protagonista di questa storia che avrà un ruolo decisivo nella battaglia per Monte Cassino. Eroe della Prima Guerra Mondiale, Sir Bernard Freiberg da principio tiene un basso profilo. Dopotutto il comando alleato ha dato a Freiberg la facoltà di ritirare il suo contingente dal conflitto quando lo ritenga opportuno. Freiberg non deve rendere conto a nessuno, né agli americani né agli inglesi. Ma gli alleati contano molto sull'abilità del combattimento dei neozelandesi, specie dopo la campagna d'Africa. Il soldato Les Andrews appartiene alla 4ª brigata della 2ª divisione neozelandese e racconta così quei momenti. Quando siamo arrivati in questa zona alla fine di gennaio, non riuscivamo a crederci. Si aspettavano che noi riuscissimo ad attaccare un'altura come quella di Monte Cassino, alta 600 o 700 metri, e conquistarla. Il nemico aveva una visuale perfetta di tutta la campagna circostante. Secondo noi era ovvio che non si dovesse ricorrere ad un attacco frontale. Nel piano messo a punto dal generale Freiberg, una colonna di autoblindo doveva percorrere la strada statale numero 6 e attraversare la valle dell'Iri. Doveva essere composta da automezzi corazzati e carri armati, con un appoggio massiccio da parte dell'aviazione. Freiberg avrebbe potuto così aggirare Cassino sul fianco e tagliare fuori i rifornimenti tedeschi. Aggirare Cassino ci sembrava la soluzione ideale, mentre attaccarla frontalmente sarebbe stata una idiozia. Accanto ai neozelandesi ci sono le truppe degli inglesi con una concezione della guerra molto diversa da quella americana. Tra le fila del contingente britannico vi sono moltissime truppe coloniali. Si tratta di reggimenti dai nomi suggestivi, composti da giovani di diverse etnie, ad esempio i Sikh e le truppe scelte nepalesi, i Gurkha. Per potersi arruolare con gli inglesi, molti di loro mentono sull'età. Uno di loro, Bharati Gurung, si arruola giovanissimo nei Gurkha. Dopo aver partecipato alla campagna di Tunisia, Gurung si ritrova in Italia. Questo il suo racconto. C'eravamo nascosti tra le montagne, buttati nei fossi per non essere visti, nascosti nella terra e al buio. Siamo rimasti a lungo così, senza acqua, né cibo, al buio, per non farci scoprire. Aspettando l'ordine per l'assalto. Abbiamo combattuto con qualunque cosa, sassi, legni, pietre. Abbiamo ucciso tanti tedeschi. I tedeschi potevano arrivare in qualunque momento, ma non erano preparati a queste montagne. Noi invece sì, noi siamo abituati a percorrere sentieri, a scendere, a salire, a scalare le montagne. Abbiamo sviluppato una certa tecnica. Abbiamo sviluppato piedi e gambe forti, che sanno camminare giorno e notte, su e giù, avanti e indietro per queste montagne. Con l'aiuto delle truppe coloniali dell'impero britannico, le più adatte a questo tipo di terreno montuoso di questa zona, a Cassino tutto è pronto per il secondo attacco degli alleati. Siamo alla metà di febbraio del 44, ma questo secondo assalto sarà la più lunga e la più tragica delle battaglie per la conquista di Monte Cassino. Quella che segnerà i ricordi dei soldati, come racconta uno di loro, Les Andrew. Ho prestato servizio nei reparti corazzati a Cassino. Non ero in un carro armato Sherman, ero in un carro gettaponti. Gettavamo i ponti per consentire ai carri armati di andare avanti. L'equipaggio era costituito da 5 uomini, il comandante, il guidatore, il radiotelegrafista, il mitragliere e un servente che caricava. In un carro armato avevamo tutti molti problemi, anche di ordine pratico, ad esempio quello di andare alla toilette. Come fare? Usavamo dei bossoli e li mettevamo fuori dalla botola sul fondo del carro armato. Cucinavamo su un fornello da campo e vivevamo per giorni con i vestiti che avevamo addosso. Quando trovavamo un po' d'acqua, potevamo raderci, altrimenti niente, per giorni e giorni. Quando c'era un po' di pioggia o addirittura un po' di neve, scavavamo una trinchea, ci mettevamo nei sacchi a pelo e cercavamo di dormire. Le truppe alleate sono sfiancate dall'inverno, dalla difficoltà di spostamenti su un terreno così impervio, reso ancora più difficile dalla pioggia, dal fango e dalla neve. ma soprattutto gli alleati non si aspettavano una resistenza così strenua da parte dei tedeschi. E siamo allora a un altro protagonista di questa battaglia di Montecassino, il comandante delle truppe tedesche. Ecco, ma chi era questo comandante, l'avversario degli alleati a Montecassino? Il generale von Senger, ce ne parla Thomas Rowe. Il generale tedesco Friedrich von Senger und Etterlin è stato forse il comandante più singolare qui a Montecassino. Senger non era nazista, anzi, a Berlino era considerato un antinazista. Aveva studiato all'Università di Oxford e amava l'Inghilterra. Cattolico praticante e benedettino laico, von Senger è quanto di più lontano si immagini dallo stereotipo dell'ufficiale tedesco. La sua carriera si è svolta seguendo un percorso lontano dal clamore e dalla celebrità. Prima di Cassino, von Senger è stato destinato in Corsica, con l'ordine di procedere all'evacuazione delle guarnigioni presenti sull'isola. Proprio in Corsica, l'ufficiale si è rifiutato di obbedire ad un ordine di Hitler, che aveva ordinato la fucilazione di tutti gli ufficiali italiani. Ciò nonostante, il superiore diretto di von Senger, Albert Kesselring, comandante in capo delle truppe tedesche in Italia, anziché denunciarlo, lo chiama a dirigere le operazioni di difesa della linea Gustav. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è una storia di guerra e di liberazione. È il 1944, gli alleati combattono sulla linea Gustav, a dirigere le operazioni di difesa. Per i tedeschi c'è von Senger, un militare assolutamente anomalo, che ha il compito di organizzare l'ultima resistenza tedesca in Italia di fronte all'avanzata degli alleati. Ma chi sono gli uomini che questo generale ha al suo comando? E soprattutto, che cosa spinge ancora questi uomini a combattere quando ormai è chiaro che la Germania è sconfitta? A Cassino il corpo d'armata agli ordini di von Senger non è composto soltanto da truppe scelte. Molte sono anche le giovani reclute, del tutto inesperte ma con una motivazione a combattere che risale alla fine della Prima Guerra Mondiale, e cioè alla sconfitta subita dalla Germania. Una sconfitta attribuita al tradimento della classe politica e finanziaria tedesca. È il primo germe del nazionalismo che apre la strada all'antisemitismo. A combattere per il Terzo Reich non sono dunque civili in divisa come nelle file degli eserciti alleati, bensì dei soldati in tutto e per tutto. È con queste truppe, soldati tutti di un pezzo, che devono scontrarsi con gli alleati, e per loro, gli alleati, a questo punto è arrivato il momento della decisione più difficile, quella nei confronti dell'abbazia. Bombardare oppure no? Il generale tedesco von Senger ha dichiarato più volte che l'abbazia è un luogo sacro, zona franca. Invece gli alleati sono convinti che l'ultima resistenza tedesca stia asserragliata dentro il monastero. Nel comando alleato allora si registra una spaccatura clamorosa. Da una parte c'è Freiberg, il generale neozelandese, deciso a bombardare l'abbazia per spezzare la resistenza tedesca. Dall'altra il generale Clark, che è assolutamente contrario. Ce ne parla Alessandro. Il generale Clark era molto critico nei confronti del generale Freiberg e della sua idea di bombardare l'abbazia. Clark era il primo incarico di comando e soprattutto pensava che il generale Freiberg fosse una prima donna. Come se non bastasse, il comandante delle forze alleate in Italia, il generale Alexander, teme che il rifiuto di bombardare l'abbazia possa spingere Freiberg, in virtù dell'autonomia decisionale che gli è stata concessa, a ritirare le truppe neozelandesi dal campo di battaglia. Una tale mossa da parte di Freiberg avrebbe significato che ad affrontare il fuoco tedesco sarebbero stati ancora inglesi e americani. E a prendere la decisione definitiva è proprio il comandante in capo delle forze alleate in Italia, il generale Alexander. È lui che sceglie la linea di Freiberg rispetto a quella di Clark, la linea che prevede di bombardare l'abbazia di Montecassino come unico modo per sfondare la linea Gustav proprio a Cassino. Gli aerei alleati iniziano a bombardare, sono le 8 del mattino del 15 febbraio del 44. A raccontarlo il testimone oculare Les Andrew. Io ho visto tutto dal Monte Trocchio. Stavamo salendo su per la montagna, erano circa le 8 del mattino, quando abbiamo visto arrivare quei pesanti bombardieri e le fortezze volanti lanciare le bombe su Monte Cassino. Vedevamo grandi bagliori rossi che salivano verso l'alto. In effetti il bombardamento di Monte Cassino è stata tutta colpa del generale Freyberg. Gli altri generali si sono limitati ad accettare il suo piano. Bisogna dire invece che fu lui a proporre quel piano, mentre gli altri si sono solo dichiarati d'accordo. Il generale Freyberg ha convinto il generale Tucker della divisione indiana, anche se non era molto convinto, e anche il generale Juin della Francia Libera, e tutti hanno accettato l'idea di bombardare il monastero. Così l'hanno bombardato ed è stato ridotto in macerie. Quei grandi generali, era uno spettacolo che lasciava senza parole, ma non hanno bombardato solo il monastero. Le loro bombe hanno colpito anche la 7ª divisione indiana, la 34ª divisione americana, il reggimento inglese Sussex. Avevano fatto dei volantini in italiano preannunciando il bombardamento. Peccato che si siano dimenticati di farceli avere anche a noi. Lo splendore del sole svanì all'improvviso. Era sceso un crepuscolo irreale, come se fosse arrivata la fine del mondo. Ovunque c'erano feriti. Altri correvano come impazziti, altri ancora urlavano, sepolti vivi sotto le macerie, fino a che nuove esplosioni li zittivano. Il frastuono ti faceva impazzire, la polvere si sollevava dappertutto. Sembrava non esistesse un riparo sicuro. Forse era davvero arrivata la fine del mondo. E a Monte Cassino sembra davvero sia arrivata la fine del mondo, come avete sentito dal testo di una lettera dal fronte. Gli aerei alleati sganciano sull'abbazia quasi 300 tonnellate di bombe, ma nel monastero, al contrario di quello che pensano gli alleati, i soldati tedeschi non ci sono. Nell'abbazia sono rimasti soltanto pochi monaci, insieme al loro abate Gregorio di Amare e moltissimi civili che proprio nell'abbazia avevano cercato rifugio contro gli orrori della guerra, come raccontano Don Faustino Avagliano dall'archivio di Monte Cassino e Thomas Rowe. Una mattina, proprio il primo di febbraio, davanti al postone Pax, all'ingresso principale, si trovavano centinaia di persone che veramente facevano pressione per entrare nell'abbazia. Il padre Abate fu informato di questo e c'era veramente un momento difficile perché il padre Abate aveva dato, come dire, si era impegnato con i tedeschi a non far entrare altre persone, proprio per non dare sospetti non agli alleati di estranei nell'abbazia, però poi di fronte a questo gesto, un grande gesto umanitario, fece entrare tutti e sono rimasti da una quindicina di giorni oltre 1000 sfollati, forse 1500. E la vigilia dei bombardamenti, il 14 febbraio, caddero dei volantini, furono lanciati dagli alleati dei volantini e furono avvisati e molti andarono già via la sera. Ma altri rimasero perché non credevano ai bombardamenti, si sono trovati dopo la guerra in una sala, lì tutti insieme, caduto il crollo di una volta sotto l'antica biblioteca, circa 300 morti. L'abbazia doveva essere bombardata, doveva essere distrutta. Questo avrebbe facilitato il secondo attacco contro la linea Gustav. Che cosa sapevano gli alleati? Beh, in primo luogo gli alleati naturalmente sapevano che Monte Cassino era uno dei grandi siti culturali e storici dell'Europa occidentale. Questo lo sapevano per certo. E il generale Eisenhower aveva ordinato che gli edifici storici non fossero distrutti a meno che non si fosse in presenza di un caso di necessità militare. Monte Cassino rappresentava un caso di necessità militare. Gli alleati sapevano anche che c'erano dei civili nell'abbazia. Distruggendo l'abbazia c'era il pericolo, c'era il rischio concreto che questi civili fossero uccisi. In terzo luogo, gli alleati sapevano anche che i tedeschi in seguito avrebbero potuto servirsi dei bombardamenti di Monte Cassino a scopo propagandistico. E infatti, così accade. Ascoltiamo ancora Don Faustino Avagliano. Il 15 febbraio del 1944, alle 9 di mattina, cominciarono i bombardamenti dell'abbazia di Monte Cassino. La notizia fece in un battibaleno fece il giro del mondo e Il mondo della cultura soprattutto rimase col fiato sospeso. Poi si seppe che i tesori più importanti, sia dell'archivio, della biblioteca, e le opere d'arte del monastero e le opere d'arte conservate dal 43 nel monastero erano state messe in salvo dai tedeschi nell'ottobre del 1943. Due ufficiali tedeschi, il capitano medico Giovanni Massimiliano Becker e il colonnello Julius Schlegel, vennero a Montecassino per parlare con il padre abate, il grande abate Gregorio di Amare, e proporre lo sgombero delle opere d'arte. La colonna tedesca giunge a Roma, dove a Castel Sant'Angelo le opere di Montecassino, per un'operazione ideata da Göring, vengono scaricate e messe in salvo. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia dello sfondamento della linea Gustav e della strage di Montecassino. Se le opere d'arte sono state messe in salvo, l'abbazia è stata comunque ridotta a un cumulo di macerie. E per gli alleati, la decisione di bombardare il monastero si trasforma in una clamorosa e inutile disfatta. Gli alleati non riescono a espugnare l'abbazia e per i tedeschi il monastero, distrutto dalle bombe alleate, diventa un trionfo di propaganda. Ma non basta. Proprio le macerie dell'abbazia diventano per i tedeschi anche un ottimo rifugio per resistere agli alleati. Annidati nei crateri aperti dalle bombe e al riparo dai grossi blocchi di pietra crollati dalle mura dell'abbazia, gli uomini della prima divisione tedesca respingono con facilità tutti i successivi attacchi alleati, nascosti in postazioni lungo le pendici della collina. Una volta cessato il bombardamento, il tenente Hermann Völk è tra i primi ad addentrarsi, strisciando tra le rovine dell'abbazia. Miracolosamente la tomba di San Benedetto è intatta. Questo è il suo racconto. Gli uomini possono evitare la guerra. Lo possono fare e lo devono fare. Mentre strisciavo per terra all'interno della buca dove mi ero rifugiato, qui a Cassino, frugando in mezzo ai detriti, ho trovato un libro. Si intitolava La battaglia al sole. In una nota a piedi pagina c'era scritta una frase di Napoleone che diceva più o meno: esistono due forze al mondo, lo spirito e la spada, ma la spada non riuscirà mai a sconfiggere lo spirito. Ecco, quando ebbi l'incarico come soldato tedesco di includere le rovine dell'abbazia di Montecassino subito dopo i bombardamenti nel mio settore, per me fu come la conferma definitiva di quella frase di Napoleone. A Montecassino quello che sembrava davvero impossibile da sconfiggere è lo spirito di resistenza dei tedeschi. Di fronte al fallimento dei tentativi per espugnare l'abbazia, il 19 febbraio il generale Alexander dà ordini di sospendere tutti i combattimenti. Ma gli alleati naturalmente non si danno per vinti. E riuniti a Caserta, i generali alleati decidono una nuova strategia, quella di andare avanti fino all'ultimo uomo e ripartire alla conquista della città di Cassino. Marzo. Ad un mese di distanza dal bombardamento dell'abbazia, tutto sembra finalmente pronto all'attacco decisivo delle difese tedesche. Alle 8:30 del mattino, gli aerei alleati iniziano a bombardare la città di Cassino. L'azione dura fino a mezzogiorno. 512 bombardieri sganciano 1.100 tonnellate di bombe sulla città. Contemporaneamente più di 500 aerei tra caccia e bombardieri attaccano obiettivi nelle immediate vicinanze. Gli alleati non incontrano resistenze da parte dell'aviazione e della contraerea tedesca. Dopo l'abbazia, anche la città di Cassino viene rasa al suolo. A Cassino tutti i civili avevano lasciato la città il 15 marzo. Per bombardare la città hanno fatto venire addirittura altri bombardieri dall'Inghilterra. Hanno svolto un lavoro tremendo. Hanno distrutto l'intera città, i palazzi, gli edifici, tutto quello che c'era. Quando è finito, i nostri carri armati non riuscivano ad entrare in città per i crateri scavati dalle bombe e per le macerie. La parte nord della città era stata praticamente rasa al suolo. Nella parte sud, invece, c'erano alcune case fortificate rimaste intatte. I tedeschi hanno rimpiazzato in tutta fretta i loro armamenti danneggiati. Insomma, sono riusciti ad organizzare un'efficace controffensiva. E dopo poco il risultato è stato che ci siamo ritrovati in una situazione di stallo. A dispetto del bombardamento sull'abbazia, prima e sulla città poi, la situazione a questo punto è di stallo completo. Gli alleati, insomma, sono ritornati al punto di partenza. Ma a fare le spese di questa situazione, come accade molto spesso in guerra, è la popolazione civile. Siamo nel marzo del 44, è il martirio di Cassino. La guerra arriva nelle strade, nei cortili e negli scantinati fra le case bombardate. I neozelandesi riescono ad entrare nell'abitato di Cassino. I pochi paracadutisti tedeschi scampati al bombardamento escono dai loro rifugi e aprono il fuoco con mitragliatrici e cannoni. Ne risulta un combattimento cruentissimo. Nel frattempo i mezzi corazzati alleati che dovrebbero sostenere le truppe neozelandesi restano bloccati nel terreno sconvolto dai bombardamenti. Per i tedeschi rimane facile avere la meglio sugli alleati. Mentre continuano i combattimenti nell'abitato di Cassino, per due terzi occupato dai neozelandesi, le truppe indiane fanno piccoli progressi nell'avvicinamento all'abbazia, senza, peraltro, riuscire a scardinare la difesa tedesca. Ce ne parla il soldato Bharati Gurung. Così cominciarono a bombardarci e a tirarci contro. Abbiamo avuto molte difficoltà a salvarci la vita. È stata davvero una carneficina. Ricordo ancora scene terribili. Centinaia di tedeschi, di uomini nostri, morti a destra e a sinistra. Tanti morti in posizioni orribili. 22 marzo. Le truppe alleate lanciano un ultimo attacco al monastero. Quando anche questo fallisce, il 23 marzo, il comando alleato ordina la sospensione dei combattimenti. Per gli storici si conclude così la campagna d'inverno. Gli alleati, insomma, sembrano non riuscire a sfondare. Intanto, però, per la popolazione della zona l'incubo non è ancora finito. Dopo i bombardamenti, infatti, i rastrellamenti. La primavera porta un'accelerazione all'attacco finale al Terzo Reich. In Inghilterra, gli alleati si preparano allo sbarco in Normandia. Sul fronte italiano, l'operazione Strangle comporta un massiccio attacco aereo a tutte le linee di comunicazione tedesche. Nel giro di un mese vengono scaricate 30.000 tonnellate di bombe. La rivalità fra Clark e Alexander per la conquista di Roma determina ritardi ed incertezze nella battaglia per la capitale. Il generale Alexander vuole essere in prima linea anche nell'offensiva finale contro la linea Gustav. Nella zona di Cassino tra il fiume Garigliano e i monti Aurunci, la quinta armata del generale Clark, composta da truppe americane, marocchine e algerine, cerca di aprirsi un varco a sud del fronte. Si tratta ancora di truppe da montagna, provenienti dai monti dell'Atlante nel Nord Africa, pronte per varcare le difese tedesche scalando montagne ritenute impraticabili. Per gli alleati non ci sono dubbi, questa deve essere la battaglia decisiva. Ce ne parla il sottotenente François Barillon. Fondamentalmente il corpo di spedizione francese era composto in maggioranza di fucilieri di origine marocchina, algerina o tunisina. Era una fanteria che si adattava perfettamente al territorio difficilissimo dell'Abruzzo e a quello dei Monti Aurunci. Questa fanteria era in grado di passare ovunque, anche dove passavano solo le capre. E infatti questo preoccupava moltissimo Kesselring, che si vedeva spuntare divisioni nemiche in luoghi assolutamente inaspettati. Dalla parte del fiume Rapido, sempre verso Cassino, ad attaccare invece l'ottava armata britannica che schiera, oltre ai soldati indiani, canadesi e inglesi, anche il secondo corpo di spedizione polacco. tra le fila di quest'ultimo, i morti saranno oltre 1200. Ma da parte del comando alleato, la scelta di mandare avanti i polacchi è tutt'altro che casuale. Ce ne parla Thomas Rowe. La storia del corpo di spedizione polacco qui a Monte Cassino è davvero sorprendente. Per capirla, dobbiamo andare indietro all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, scoppiata quando la Germania nazista ha invaso la Polonia. Ma spesso si dimentica che la Polonia era stata invasa anche dall'Unione Sovietica. Quella di distruggere lo Stato polacco era infatti un'ambizione condivisa sia da Hitler che da Stalin. Una delle conseguenze fu ad esempio il massacro di migliaia di ufficiali polacchi nelle foreste di Katyn da parte delle truppe russe. In Polonia però la situazione cambia radicalmente nel 1941. Nel 1941 infatti Hitler volta le spalle al suo alleato Stalin e invade l'Unione Sovietica. Proprio a seguito dell'invasione della Russia, Stalin decide di ricostruire l'esercito polacco. Ecco perché qui a Monte Cassino c'erano anche i polacchi. I polacchi qui a Monte Cassino combattevano per qualcosa di molto importante. Combattevano per l'idea di una Polonia libera. E al sacrificio dei polacchi, sotto la guida del generale Andrews, si deve l'ultimo sforzo degli alleati, quello decisivo. Siamo alla quarta e ultima battaglia di Cassino, è l'11 maggio del 44. Tra aprile e maggio i tedeschi hanno rafforzato la linea Gustav con una nuova posizione fortificata, detta linea Hitler. Sotto il comando di Kesselring sono pronti ad affrontare l'attacco finale. Le truppe del Führer, tuttavia, sono anche allo stremo delle forze. L'acqua, le munizioni e i medicinali arrivano solo di notte e sono comunque insufficienti. Ma anche sul fronte alleato le cose non vanno meglio. I soldati vivono nell'attesa dell'ordine di ritirarsi, che però non arriva mai. Al contrario, il generale Enders, disperato, manda in combattimento anche autisti e cuochi prelevati nelle retrovie che non hanno imbracciato mai un fucile in vita loro. Mattatoio Cassino, così sarà definita una delle battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale. 4 mesi di scontri durissimi con un tributo enorme di vite umane. Io mi chiedo, perché ero al fronte? Per proteggere la vita? Per difendere i campi di aviazione? Per far sì che gli aerei nemici non rilevassero i luoghi per il decollo? Oggi penso, sono convinto di essere nel giusto, che quell'esperienza è stata necessaria per arrivare alla mia nuova vita, quella di sacerdote. Oggi io credo fermamente che quello che conta non sia la superiorità numerica, né il potere materiale o la potenza della voce di chi grida più forte. Determinante è l'opera silenziosa di San Benedetto, ritirato in cima a una montagna al di sopra delle miserie di un mondo effimero. Lassù, in quel silenzio, questa forza rumorosa è diventata vitale. Monte Cassino per me è ancora oggi il centro spirituale dell'Europa.